Terzo anello, ad alta voce, L'isola del tesoro di Robert Louis Stevenson. L'aspetto dell'isola, quando salì in coperta la mattina dopo, era completamente mutato. Quantunque la brezza fosse allora del tutto cessata, avevamo fatto parecchio cammino durante la notte e galleggiavamo adesso in bonaccia, circa mezzo miglio a sud-est della bassa costa orientale. Boschi grigiastri coprivano gran parte della sua superficie. Questa tinta uniforme, veramente, era interrotta da strisce di sabbia gialla, nelle zone più basse, e da numerosi alberi di alto fusto, della famiglia dei pini, che soverchiavano quegli altri, alcuni isolati, altri a gruppi, ma la tinta generale rimaneva uniforme e tetra. I monti si ergevano chiari al di sopra della vegetazione, in torrioni di roccia nuda. Avevano tutti forme bizzarre e il canocchiale, che era di 300 o 400 piedi, il più alto dell'isola, appariva altresì il più strano di conformazione, perché saliva a strapiombo da ogni lato per poi spianarsi all'improvviso in cima come un piedistallo che aspetti una statua. La Hispaniola rollava con gli ombrinali immersi nell'oceano ingrossato, le verghe scotevano i bozzelli, la barra del timone sbatteva qua e là e tutta l'ossatura del bastimento scricchiolava, gemeva e sussultava come un'officina. Dovevo tenermi attaccato ai paterazzi e il mondo mi girava vertiginosamente davanti agli occhi, perché quantunque fossi abbastanza buon marinaio, quando si filava, quel dovermene restare inattivo e farmi sballottare come una bottiglia era cosa che non ero mai riuscito a sopportare senza un po' di nausea, soprattutto la mattina a stomaco vuoto. Forse fu questo, forse fu l'aspetto dell'isola, con quei suoi grigi boschi malinconici e coi suoi selvaggi torrioni rocciosi, o la risacca che vedevamo spumeggiare e udivamo tuonare contro l'erta ripa. Fatto sta che quantunque il sole splendesse brillante e caldo e gli uccelli della spiaggia pescassero stridendo tutto intorno e sembrasse naturale che ognuno fosse contento di toccar terra dopo così lungo viaggio per acqua, io mi sentivo mancare il cuore, e da quella prima occhiata in poi sempre ebbi in odio anche il solo pensiero dell'isola del tesoro. Avevamo davanti una mattinata di monotona fatica, perché non vi era accenno di vento, e si fu costretti a mettere in acqua le scialuppe e imbarcarci gli uomini, onde tirare a rimorchio la goletta per 3 o 4 miglia intorno alla punta dell'isola e su per lo stretto passaggio che menava al porto dietro l'isola dello scheletro. Mi offersi per una delle imbarcazioni, dove però non ebbi nulla da fare. Il caldo era estenuante e i marinai brontolavano furiosamente per la loro fatica. Anderson governava la mia scialuppa e invece di richiamare l'equipaggio brontolava quanto i peggiori. «Però», disse con una bestemmia, «non andrà sempre così». Mi parve questo un pessimo segno, perché fino a quel giorno i marinai avevano atteso ai loro compiti con impegno e buon volere, ma era bastata l'apparizione dell'isola per allentare ogni vincolo di disciplina. Ci ancorammo proprio dove era segnata un'ancora sulla carta, a circa un terzo di miglio da ciascuna riva, con l'isola principale da un lato e l'isola dello scheletro dall'altro. Il fondo era sabbia perfetta. Il tuffo della nostra ancora fece levare nembi di uccelli che rotearono e schiamazzarono al di sopra dei boschi, ma in meno di un minuto si erano di nuovo posati e tutto era tornato silenzioso come prima. Dalla nave non potevamo scorgere traccia del fortino, ovvero della palizzata, perché completamente sepolto fra gli alberi, e se non fosse stato per la carta sul boccaporto avremmo potuto figurarci di essere i primi ad aver posto piede lì da quando l'isola era emersa dalle acque. Non il minimo filo d'aria, né un qualsiasi rumore all'infuori del rimbombo della risacca mezzo miglio più in là lungo la spiaggia e contro gli scogli estremi. Un caratteristico fetore stagnante era sospeso su quell'ancoraggio, fetore di foglie imputridite e tronchi d'albero marci. Osservai che il dottore annusava e riannusava come chi fiuti un nuovo guasto. «Non mi intendo di tesori», disse, «ma scommetto la mia parrucca che qui c'è malaria». Thank you. Se il comportamento dei marinai era stato allarmante nelle scialuppe, divenne addirittura minaccioso quando furono tornati a bordo. Si gingillavano per la coperta riunendosi inconciliaboli. Il minimo comando era accolto con un'occhiata di traverso ed eseguito trascuratamente e di malavoglia. Anche i marinai fedeli dovevano essere stati contagiati, perché non c'era un uomo a bordo che riprendesse il suo compagno. L'ammutinamento era chiaro, pendeva sul nostro capo come una nuvola carica di tuoni. E non eravamo noi soli della cabina di poppa a renderci conto del pericolo. Long John si dava un grande affare, passando da un gruppo all'altro, prodigandosi in buoni consigli, così che nessuno avrebbe potuto offrire miglior esempio di lui. Superava se stesso in benvolere e gentilezza. Era tutto sorrisi per chiunque. Se scoccava un comando, Long John si piazzava sulla sua stampella in un attimo, con i più premurosi «Signor sì!» del mondo. E quando non c'era nient'altro da fare, infilava una canzone dietro l'altra, quasi a nascondere il malcontento del resto. Di tutte le fosche caratteristiche di quel fosco pomeriggio, questa evidente ansietà da parte di Long John appariva la peggiore. Tenemmo consiglio nella cabina. «Signori!» disse il capitano. «Se azzardo un altro comando, tutta la ciurma ci piomberà addosso come un solo uomo. Lo vedete da voi a che punto siamo. Supponete che mi prenda una rispostaccia. Ebbene, se replico, siamo alle brutte, senz'altro. Se non replico, Silver si accorgerà che c'è qualcosa sotto. E la partita è perduta. Per intanto non abbiamo che un uomo su cui si possa contare». «E chi è costui?» chiese il cavaliere. «Silver, signore», rispose il capitano. «È ansioso quanto me e voi di appianare le cose. È soltanto una ripicca, e qualche parola ben detta da Long John, se ne avesse la possibilità, basterebbe a calmare gli animi. E quel che propongo io è di dargliela questa possibilità. Lasciamo liberi i marinai di andare un pomeriggio a terra. Si sbarcano tutti? Bene, ci impadroniamo della nave noi. Se nessuno sbarca, ebbene, noi teniamo la cabina e che Dio ci protegga. Se sbarcano alcuni, prendete nota delle mie parole, signori, Silver li riporterà a bordo, docili come tanti agnellini». Così fu deciso. Vennero distribuite pistole cariche a tutti gli uomini sicuri, Hunter, Joyce e Redruth furono ammessi alla nostra confidenza e ricevettero le notizie con meno sorpresa e più spirito di quanto avessimo previsto. Dopodiché il capitano salì in coperta e arringò la ciurma. «Ragazzi», disse, «abbiamo avuto una giornata torrida e siamo tutti estenuati e fuori dai gangheri. Un'escursione a terra non farà male a nessuno. Le scialuppe sono ancora in acqua e chi se la sente può rimanere a terra per il pomeriggio. Sparerò un colpo di cannone un'ora prima del tramonto». Il capitano era troppo accorto per non togliersi di mezzo. Si eclissò all'istante, lasciando a Silver di organizzare la spedizione. E io, per me, credo che agisse opportunamente. Il vero capitano era Silver, che aveva a sua disposizione un potente equipaggio in rivolta. Alla fine la spedizione fu allestita. 6 dovevano rimanere a bordo e i rimanenti 13, compreso Silver, cominciarono a imbarcarsi. Fu in quell'istante che mi frullò per il capo la prima di quelle idee pazze che tanto contribuirono a salvarci la vita. Se Silver lasciava 6 uomini, era evidente che il nostro partito non poteva impadronirsi a forza della nave. E dato che solo 6 ne lasciava, era altrettanto evidente che il partito della cabina non aveva attualmente bisogno del mio aiuto. Mi saltò in mente a un tratto di scendere a terra. In un baleno ero scivolato lungo la murata e mi ero accoccolato sul banco di prua della scialuppa più vicina, che quasi nello stesso istante si mosse. Nessuno si accorse di me, salvo il rematore di prua, che disse: «Sei tu, Jim? Abbassa il capo!» Ma Silver, dall'altra scialuppa, si volse prontamente a scrutare e dette una voce per sapere se fossi io. E da quel momento cominciai a rimpiangere quanto avevo fatto. La ciurma vogò in direzione della baia, ma la scialuppa sulla quale mi trovavo, avendo qualche vantaggio ed essendo d'altronde la più leggera e quella meglio governata, oltrepassò di molto il compagno, e la sua prua aveva già urtato tra gli alberi della costa, e io, afferrato un ramo, mi ero issato fuori ed ero piombato nel cespuglio più prossimo, che Silver e il resto erano ancora 50 yarde indietro. «Jim! Jim!» lo sentivo urlare, ma potete figurarvi se gli diedi ascolto. Saltando, strisciando, spezzando i rami che mi ostacolavano, mi misi a correre all'impazzata, finché non ne potei più. Ero così contento di averla fatta a Long John che cominciai a divertirmi e a guardarmi intorno con curiosità lo strano paese dove mi trovavo. Provavo ora per la prima volta la gioia dell'esplorazione. L'isola era disabitata. Mi ero lasciato alle spalle i compagni di bordo e null'altro mi viveva davanti che animali e uccelli. Gironzolai tra gli alberi. Qua e là fiorivano piante a me sconosciute. Qua e là scorgevo serpenti e uno alzò il capo da una fenditura nella roccia e sibilò verso di me con un suono analogo al frullio di una trottola. Ero ben lungi dal supporre che fosse un nemico mortale e che quel suo rumore fosse il famoso sonaglio. Tutto a un tratto si udì una specie di tramestio per quei giunchi. Un'anatra selvatica spiccò il volo crocidando, un'altra la seguì e ben presto su tutta la superficie dello stagno si trovò sospeso un immenso stormo di uccelli che gracchiavano o roteavano per l'aria. Intuì immediatamente che qualcuno dei miei compagni di bordo doveva approssimarsi lungo i margini della palude. Ne fui deluso, perché udii poco dopo suoni molto distanti e bassi di voce umana, i quali, dato che continuavo a tendere l'orecchio, andarono facendosi più forti e vicini. Ciò mi mise in grande timore, così che strisciai al coperto della più vicina quercia sempreverde e lì mi acquattai, origliando, muto come un pesce. Un'altra voce rispose, e poi la prima, in cui riconobbi quella di Silver, riprese di nuovo a parlare e continuò a lungo in un profluvio di parole, interrotte solo ogni tanto. Stando al tono dovevano parlare animatamente e piuttosto concitati, ma nessuna parola giungeva distinta ai miei orecchi. Fu a questo punto che cominciai a pensare che stavo trascurando il mio compito, che, visto che ero stato così avventato da venire a riva con quei disperati, il minimo che potessi fare era spiare i loro conciliaboli e che il mio più sacrosanto dovere era portarmi più strettamente a contatto che potessi sotto il provvidenziale mascheramento della rigogliosa vegetazione. Potevo stabilire la direzione degli interlocutori con tutta esattezza, non soltanto dal suono delle loro voci, ma dal comportamento dei pochi uccelli che pendevano ancora spaventati sul capo degli intrusi. Strisciando a quattro zampe, avanzai cautamente, ma decisamente verso di loro, finché, alzando il capo tra il fogliame, potei discernere entro una piccola insenatura verde, vicina alla palude al coperto di alberi fitti, Long John e un altro della ciurma, che conversavano uno di fronte all'altro. Il sole li colpiva in pieno. Silver aveva buttato il cappello per terra dinanzi a sé e il suo faccione pallido, tutto lustro dal calore, era levato verso quello del compagno, in atto di esortazione. «Compagno», stava dicendo, «è perché ti considero di gran valore. Puoi giurarci, altrimenti ti pare che sarei qui a metterti in guardia. Tutto è deciso, non puoi più farci nulla. È per salvare la tua testa che ti parlo io. E se uno di quegli scellerati lo sapesse, cosa succederebbe di me, Tom? Dimmelo tu, cosa succederebbe?» «Silver», rispose l'altro, e io osservai che non soltanto aveva il viso scarlatto, ma che parlava con voce rauca come quella di una cornacchia, e che quella voce gli tremava come una corda tesa. «Silver», diceva, «tu sei un uomo maturo e sei uno onesto. O almeno ne hai la reputazione, e hai anche quattrini che un mucchio di poveri diavoli di marinai non hanno, e sei coraggioso, o io sono un illuso, e vorresti farmi credere che tu ti lasci trascinare da questa marmaglia, ma non è da te. Com'è vero che Dio mi vede, preferirei perdere una mano se rinnego il mio dovere.» A questo punto fu interrotto da un rumore improvviso. Avevo scoperto uno dei marinai fedeli, ed ecco che nello stesso istante dovevo avere la rivelazione di un altro. Molto lontano nella palude salì a un tratto una specie di grido di rabbia. Un altro lo seguì immantinente. Poi fu un urlo, orrendo e continuato. Gli echi del cannocchiale se lo rimbalzarono parecchie volte. L'intero stormo degli uccelli acquatici si levò ancora, annerendo il cielo con un simultaneo frullo d'ali, e fu molto dopo che quell'urlo di morte risuonava ancora nel mio cervello, che il silenzio riprese il suo dominio, e soltanto il fruscio degli uccelli che ridiscendevano e il rombo della risacca lontana turbarono il languore del pomeriggio. A quel rumore Tom era balzato come il cavallo allo sprone, ma Silver non aveva mosso ciglio. Era rimasto dov'era, appoggiandosi leggermente alla sua stampella, sorvegliando il compagno come un serpente pronto a scattare. «John!» disse il marinaio avanzando la mano. «Giù le zampe!» gridò Silver, indietreggiando di qualche yarda, con l'elasticità e la precisione di un consumato ginnasta. «E allora?» «Giù le zampe quanto vuoi, John Silver!» disse l'altro. «Solo la cattiva coscienza ti può ispirare paura di me! Ma in nome del cielo, dimmi cos'era quello!» «Quello?» rispose Silver sorridendo, ma più che mai in guardia, gli occhietti ridotti a capocchi di spille nel suo faccione, ma scintillanti come frammenti di vetro. «Quello, io direi che doveva essere Alan!» A queste parole il povero Tom avanzò eroicamente. «Alan!» gridò. «Allora pace all'anima di quel marinaio fedele! E quanto a te, John Silver, per lungo tempo sei stato un mio compagno! Ma d'ora innanzi non lo sai più! Se devo morire come un cane, morirò facendo il mio dovere! Hai ammazzato Alan, vero? Ammazzami pure se te la senti! Io ti sfido!» E con queste parole quel bravo ragazzo voltò le spalle al cuoco e si avviò verso la baia. Ma non sarebbe andato lontano. Con un urlo John afferrò il ramo di un albero, si strappò la gruccia di sotto l'ascella e scagliò questo strambo proiettile per l'aria. Esso colpì il povero Tom con la punta e con stupefacente violenza proprio in mezzo alla schiena. Tom alzò le mani, emise una specie di gemito e cadde. Se fosse ferito molto o poco, nessuno mai avrebbe potuto dire. A giudicar dal rumore doveva avergli spezzato la schiena. Ma non ebbe il tempo di riprendersi. Silver, agile come una scimmia, anche senza gamba e gruccia, gli fu sopra un istante dopo e immerse due volte il suo coltello fino all'impugnatura in quel corpo indifeso. Dal mio nascondiglio potei sentirlo ansar forte mentre vibrava i colpi. Ora John si portò la mano alla tasca, ne cavò un fischietto e ne trasse vari suoni modulati che si propagarono lontano per l'aria infuocata. Non potevo naturalmente capire il significato del segnale, ma esso destò istantaneamente le mie paure. Potevano accorrere degli altri, potevo essere scoperto. Dei fedeli ne avevano già assassinati due, dopo Tom e Alan. Non poteva essere la mia volta. Senza perdere un istante, cominciai a districarmi e a strisciare nuovamente all'indietro, quanto più veloce e silenzioso potevo, verso la zona più rada del bosco. Mentre così facevo, potei udire incrociarsi voci di saluto tra il vecchio filibustiere e i suoi compagni, e questo suono di pericolo mi dette le ali. Non appena mi fui liberato dal bosco, corsi come non avevo mai corso in vita mia, badando appena alla direzione della fuga, purché mi avesse allontanato dagli assassini, e più correvo e più cresceva in me la paura, finché si tramutò in una specie di delirio. «Tutto è perduto», pensavo. «Addio, Hispaniola! Addio, cavaliere! Addio, dottore! Addio, capitano!» Altro non mi rimaneva che la morte per fame o per mano degli ammutinati. Nel frattempo, come ho detto, continuavo a correre e senza accorgermene ero giunto vicino al piede della piccola montagna dai due picchi e mi ero portato in una zona dell'isola dove le querce sempreverdi crescevano più rade e avevano più l'aspetto degli alberi di una foresta. Per aspetto e dimensioni si mescolavano ad esse rari pini isolati, alcuni alti 50 e altri quasi 70 piedi. Anche l'aria odorava più fresca che in basso, verso lo stagno. Ma qui un nuovo allarme mi costrinse a sostare col cuore in gola. Thank you.